Dopo il nuovo clamoroso tonfo del Milan battuto in casa dallo Zurigo, insorgono anche le badanti di Inzaghi e Seedorf che reclamano un aumento di stipendio. Siamo stufe, protestano le badanti, di fare gli straordinari anche il mercoledì. Replica sconsolata i Galliani, non possiamo sforare i bilanci.